Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati ad una nuova puntata di Salva Danaio. Fino a 7.000 euro per l'acquisto di ecocase che consentono un risparmio consistente di energia. C'è anche questo nel pacchetto incentivi varato dal governo la scorsa settimana. Vi avevamo promesso che vi avremmo spiegato tutta la rete degli incentivi previsti. Lunedì, lo ricorderete, ci siamo occupati di elettrodomestici e scooter. Oggi invece andiamo alla casa ecosostenibile. La norma prevede un contributo pari a 83 euro per metro quadrato di superficie utile, con un massimo di 5.000 euro per immobili che garantiscono un risparmio di energia del 30%, e lo sconto sale a 116 euro al metro quadrato e ad un tetto di 7.000 euro se i consumi energetici migliorano invece del 50%. E allora, quante domande intorno a queste misure? Sono moltissime quelle che ci avete rivolto in questi giorni. A chi si chiede per esempio lo sconto? Chi certifica questo risparmio energetico? E che caratteristiche ha una casa ecosostenibile, visto che se ne fa un gran parlare, ma molti di noi in realtà non ne sanno proprio nulla e magari hanno anche una bella proprietà, la proprietà di un bel appezzamento di terreno, e magari potrebbero utilizzarlo per costruirci proprio una dimora ad alta efficienza e ad alto risparmio energetico. Allora, come si quantificano anche gli obiettivi a seconda dell'area prescelta e a seconda della zona dove si vuole costruire? Sono tante le domande intorno a questo argomento. Cercheremo di rispondere a tutti questa mattina con i nostri due esperti del settore, l'ingegner Marco Imperadori, professore associato presso il Politecnico di Milano, esperto di efficienza energetica ed edilizia. Bentornato a Salva Danaio. Grazie Deborah. E bentornata anche l'ingegner Valeria Erba, presidente dell'ANIT, l'Associazione Nazionale per l'Isolamento Termico ed Acustico, la nostra esperta di riferimento tutte le volte che abbiamo parlato del tema dell'incentivo del 55% per appunto la riqualificazione energetica degli edifici. E oggi quindi abbiamo due esperti in materia e vedremo anche quanto esperti relativamente alla nuova misura varata dal governo, perché in realtà ancora su questa ci navighiamo e brancoliamo un po' nel buio, però insomma cercheremo di spiegare almeno quello che sappiamo fino a questo momento. Le vostre domande sono sempre possibili all'800240024, ma potete anche scriverci alle 349-238-6666. Diamo un'occhiata alla borsa prima di partire con il nostro argomento. Le borse europee stamattina erano partite benino, con rialzi fra lo 0,2 e 0,3%, confortate anche dalla chiusura di ieri sera di Wall Street, che si è portata ai massimi da 18 mesi a questa parte. Poi è arrivata Fitch, l'agenzia di rating, che ha abbassato il giudizio sul debito di lungo periodo del Portogallo, anche se ha confermato la valutazione sui titoli a breve termine. E questo è bastato a far cambiare completamente la direzione della giornata. Gli indici sono arrivati a perdere più di un punto percentuale, adesso ancora un tentativo di miglioramento, ma c'è il segno meno ovunque in Europa. Parigi meno 0,6%, Francoforte perde lo 0,23%, Londra lo 0,46% e Milano lo 0,83%, ma più di tutto l'effetto si è fatto sentire, sull'euro, che ha scivolato sul dollaro a 1,3342, sta toccando nuovi minimi sul franco svizzero, 1,4285 il rapporto di cambio in questo momento, per cui è chiaro che la moneta europea, anche in attesa di una definizione chiara sulla strategia da adottare nei confronti della Grecia, e l'euro appunto a risentirne di più di questa situazione. Rapidamente i migliori titoli di Piazza Affari: Prysmian più 3,38%, che beneficia di un rapporto positivo di Deutsche Bank. Fiat presenta il suo piano industriale il 21 aprile, qualche giornale stamattina ne ha anticipato i contenuti, titolo in rialzo del 2,77%. STM, giudizio positivo operato da Goldman Sachs, titolo in rialzo del 2,68%. E poi Exor, l'azionista di riferimento di Fiat, guadagna il 2,44%. Mediaset, dopo i conti di ieri sera, stamattina cedeva, adesso guadagna lo 0,76%. In calo Buzzi, meno 2,24, Saipem meno 1,84, Generali meno 1,80. Questi i temi di borsa. Il tema di oggi invece di Salva Danaio è in arrivo, tra l'altro, anche questo quadro normativo lo ricordiamo molto poco frequentemente, una direttiva europea che impone costruzioni verdi entro il 2020. Anche l'Italia cerca di mettere in atto tutte quelle misure per non trovarsi impreparata a questa scadenza, e anche in quest'ottica forse sono stati varati gli ultimi incentivi per costruire in Italia case ecosostenibili. Sentiamo la nostra scheda. La casa ecologica, che permette di risparmiare e che rispetta l'ambiente, è destinata a restare un sogno inaccessibile ai molti. Probabilmente no, anche perché entro pochi mesi dovrebbe essere approvata una direttiva europea che di fatto impone costruzioni di edifici verdi, secondo principi ecosostenibili, entro il 2020. Ma costruire una casa ecosostenibile o aumentare l'efficienza di una già esistente può essere costoso. Se per risparmiare energia bastano piccoli accorgimenti, come l'utilizzo di lampadine ed elettrodomestici molto efficienti, per avere una casa ecosostenibile occorre altro. A partire dai materiali con cui è costruita, isolanti naturali e traspiranti, sughero, legno e resine, pavimenti in cotto. E al posto dei soliti muri in cemento, il ritorno a quelli a secco, con spazi vuoti tra un muro e l'altro, per garantire l'isolamento termico. Misure che, sebbene con il tempo assicurino un risparmio, impattano in maniera piuttosto considerevole sul portafogli. È anche per questa ragione che il governo nel corso degli anni ha introdotto incentivi sia per i lavori di ristrutturazione energetica, come le detrazioni del 55%, che per la costruzione o l'acquisto di case ecologiche. Il decreto incentivi varato la scorsa settimana prevede infatti un contributo che varia in base al risparmio energetico garantito dall'immobile per l'acquisto di abitazioni a basso impatto energetico. In particolare, il contributo è pari a 116 euro al metro quadro, con un massimo di 7.000 euro, per gli edifici di classe A e di 83 euro al metro quadro, con un tetto di 5.000 euro, per edifici di classe B. 800 24 00 24 è il numero verde per i vostri interventi, 349 238 6666 il numero per i vostri messaggi. Arriva già qualche messaggio per l'appunto. Come funziona questo bonus in caso di allargamenti, ci chiede un ascoltatore. In Lombardia c'è qualche norma particolare alla quale attenersi? Allora, diciamo che ci sono molti aspetti che devono essere chiariti. Dovrebbe arrivare in sostanza un provvedimento attuativo di queste misure. Cominciamo a sentire i nostri ospiti intanto su un giudizio generale. Ricomincio, perché lo sento non lo sento da più tempo, con l'ingegner Marco Imperadori. Ci dicevamo a microfoni spenti, forse è una misura ancora un po' confusa, forse non è ampissima, insomma, rispetto all'investimento che è necessario anche per ovviamente costruire una casa con questi criteri, però sempre meglio che niente. Sì, sempre meglio che niente, sono d'accordo anch'io. Per cambiare un po' lo spirito magari. Assolutamente anche... sì, è una pioggerellina perché è stata diffusa su più temi, però appunto una pioggerellina rinfresca rispetto al nulla, no? E comunque può definire comunque un dibattito, può aprire soluzioni. E ricordo ai radioascoltatori, che saluto, che comunque investire nel risparmio energetico, nella propria casa, anche sul recupero, perché già qui rispondiamo alla prima domanda, il decreto non prevede di finanziare i recuperi, è sul nuovo, quindi mm-hmm. è mirato proprio sulle nuove costruzioni. Comunque intervenire, e non è solo il punto R, diciamo la lettera R del comma 1 dell'articolo 1, cioè relativa alle case, ma anche la lettera H, cioè anche in piccola parte appunto per chi cambia, utilizza caminetti, stufe a legno mm-hmm. o pellet, anche questo fa parte della casa. Quindi questi due punti sono quelli in discussione mm-hmm. oggi, mentre gli altri sono già stati discussi. No, per chi invece eventualmente volesse, come dire, usufruire di bonus che vanno in qualche maniera a premiare chi vuole riqualificare dal punto di vista energetico la propria abitazione, ingegnere Erba, questo famoso 55%, c'è tempo fino alla fine di quest'anno, peraltro. Fino alla fine di quest'anno. Poi non si sa. L'idea del gruppo efficienza energetica dell'Enea è di ovviamente prorogare questi incentivi in maniera probabilmente diversa, tarandoli sull'efficienza effettiva, cioè su quanto effettivamente è stato guadagnato a livello energetico, oppure rivedendo un attimino gli interventi. Speriamo che sia così, cioè noi ci crediamo molto a questi incentivi, purtroppo da un certo verso sono stati poco sfruttati e questo è emerso sia da una ricerca nostra che da una ricerca dell'Enea. Su quegli interventi legati all'involucro sono stati magari molto sfruttati, sugli interventi più facili, interni, cioè impianti e diciamo serramenti, ecco, diciamo gli interventi più semplici, mentre l'involucro opaco, quindi rifare le pareti esterne, isolare di più il tetto, quant'altro, è stato poco sfruttato per tanti motivi. Comunque noi spingiamo sempre molto su questa cosa, speriamo che vada avanti perché è un'opportunità da non perdere da parte di tutti. Certo, magari perché a volte sono investimenti enormi per interi edifici, interi condomini, lì quando bisogna trovare l'accordo di tutti su questi investimenti molto importanti è chiaro che bisogna mettere insieme molte teste. Ecco, una cosa che volevo dire è che a livello di assemblea condominiale, nel caso di interventi di riqualificazione energetica, Non è necessaria la maggioranza all'interno dell'assemblea condominiale per decidere, ma basta la maggioranza, diciamo, basta la maggioranza semplice, cioè chi c'è in assemblea, la maggioranza semplice può decidere su un intervento di riqualificazione energetica. Però il problema cosa è che sono... a qualche anno fa non era fattibile. No, lo dico nel senso che questo c'è, è ovvio che è molto in discussione, perché è ovvio che se in assemblea ci sono tre persone e due decidono su un intero condominio, no, è può che non tante essere volte molto... prima bisogna ovviamente che l'amministratore si incarichi, certo, di predisporre un bel preventivo, poi si deve organizzare l'assemblea, farla, far partire i lavori e quant'altro, passano i mesi e questo incentivo nel frattempo è finito, ecco, ecco, questo è il punto, questa è la cosa importante, esatto, a casa infatti propria uno magari gli infissi li cambia in tempi un po', certo, più rapidi. Allora, gli incentivi nuovi, però molti ci stanno chiedendo delucidazioni su questi. Noi abbiamo già dato i termini negli standard, i parametri fondamentali, appunto li abbiamo detti all'inizio, li abbiamo ricordati nella scheda, però andiamo subito ai dettagli con le domande dei nostri ascoltatori, direi di farli intervenire subito, cominciando con Gianluca da Milano, che saluto, benvenuto Gianluca. Sì, buongiorno, salve, complimenti per la trasmissione. Grazie. Senta, volevo chiederle questo, volevo chiedere se uno dei problemi è come si fa a misurare l'efficienza energetica. Infatti. Allora, il fatto che adesso abbiamo la possibilità, acquistando degli appartamenti nuovi, di sapere già che classificazione hanno, questa classificazione può essere messa in corrispondenza dello sconto, cioè un edificio di classe A+ è direttamente soggetto a uno sconto di 7.000 euro? Oppure deve andare a chiederlo direttamente? Allora, sì, Gianluca, chi vuole cominciare? Ingegnere Imperadori, professore, sì, Imperadori, allora, come la devo chiamare? Che fa mille cose. È lo stesso. Allora, il decreto è abbastanza chiaro, nel senso che si parla di migliorie del 30% o del 50% e quindi poi di tetti raggiungibili fino a 5.000 o a 7.000, con un importo sul metro quadro di 83 nel caso del tetto fino a 5.000 e di 116 al metro quadro nel caso del tetto fino a 7.000, facendo riferimento alla classificazione secondo il decreto legislativo, la legge del 19 agosto 2005, la 192. Ora, se l'ascoltatore vuole poi un parere del sottoscritto su questa legge, glielo do subito. Ma perché ce lo dobbiamo far mancare? Perché secondo me, mentre in altri punti del decreto, sui frigoriferi, sulle lavastoviglie, quando noi andiamo a acquistare un elettrodomestico a più, in realtà possiamo essere molto sicuri che questo elettrodomestico risponde a questa classificazione, anche perché credo che pian piano tutti quelli di classe energetica inferiore verranno ritirati, sì, dal mercato, fra un po' troveremo solamente proprio quelli. Perché si è innescato un meccanismo positivo nell'industria che fa si sfida su questo e quindi punta all'innovazione, punta all'efficienza che è certificata attraverso poi un marcatore molto semplice, tutti abbiamo in testa le freccine gialle, rosse, certo, o arancio, in cui scegliamo A, B, mettere C. Il marchio sulla casa sulla è casa complicato. È più difficile, è vero che c'è, però credo sia incontestabile che ad oggi in Italia ci sia un'eterogeneità motivata anche dal fatto che la disciplina è regionale, disciplina in termini energetici e poi anche di certificazione, ogni regione si muove in modo un po' diverso, in certi casi al di là e oltre e meglio della legge, ci sono casi insomma conosciuti e con più anni di esperienza. E dovrei dire un'altra cosa, ne discutevamo anche prima, io sono un forte sostenitore della certificazione di tipo terzo. Cioè certificazione da parte di soggetti o entità che non sono progettisti. Ciò avviene pochissimo in Italia, in realtà. Allora, sì, no, tra l'altro adesso anche un aspetto interessante che mi veniva in mente ascoltando la riflessione del nostro ascoltatore, perché ce ne scrive anche un altro che dice: vuole sapere se l'incentivo è valido solo per l'acquisto o anche per la costruzione di case ecosostenibili. Il tema è che vale per il nuovo, pertanto credo che valga per entrambe le opzioni. Siamo ritornati in diretta, ancora buona giornata da Deborah Rosciani. Oggi vi proponiamo praticamente la seconda puntata del nostro viaggio nell'ambito degli incentivi varati dal governo venerdì scorso. Oggi affrontiamo quelli destinati a chi ha intenzione di costruire una casa nuova o di acquistare una casa nuova secondo criteri di ecosostenibilità. Allora, la legge prevede un contributo di 83 euro per metro quadrato di superficie utile nel limite massimo di 5.000 euro per l'acquisto di immobili con fabbisogno di energia primaria migliore almeno del 30% rispetto a determinati valori di cui abbiamo parlato prima, valori contemplati da una legge di cui abbiamo parlato molto spesso anche in questa trasmissione, la legge 192 del 2005, peraltro ingegnere Erba. Valeria Erba, presidente dell'ANIT, l'Associazione Nazionale per l'Isolamento Termico ed Acustico. Ricordiamo che cosa prevede questa legge, perché ne abbiamo fatto un gran parlare, soprattutto quando parliamo del cosiddetto certificato energetico della casa. Sì, la legge 192 del 2005, diciamo che è la legge di attuazione di una direttiva europea proprio sull'efficienza energetica degli edifici. L'Italia, come tutti i paesi membri della Comunità Europea, hanno dovuto recepire questa direttiva e nel 95 col 192, poi è stata modificata col 311 ed è uscito l'anno scorso finalmente decreto attuativo, perché come si sa in Italia fino all'anno scorso eravamo in un regime transitorio, però era valido ovviamente, che è il DPR 59, quindi valido il DPR 59. In questa legge vengono riportati i limiti di efficienza energetica che devono avere gli edifici, legati sia alle strutture piuttosto che alle strutture più l'impianto, quindi a seconda dell'intervento o del fatto che l'edificio sia nuovo, devono rispettare determinati requisiti. Mm-hmm. Quindi diciamo che è la legge che determina i requisiti. Questo decreto incentivi non fa altro che dire: se tu migliori del 30 o del 50% l'efficienza, i limiti di efficienza energetica del DPR 59 o 192 precedente, puoi usufruire di questi incentivi. Questo lo dico perché bisogna sempre far riferimento a questa legge e non tanto alla classificazione energetica, mm-hmm. perché poi si fa molta confusione, essendoci, come abbiamo detto prima, diversi parametri di classificazione energetica in funzione delle regioni. Delle regioni in cui si abita, naturalmente, perché poi il clima è diverso e quindi chiaramente i parametri sono diversi, soprattutto per le condizioni climatiche del nostro paese. Secondo lei a chi conviene, parlando in soldoni, non lo so, sfruttare i benefici e i vantaggi di questa nuova normativa? Chi potrebbe avventurarsi appunto nella richiesta, di cui ancora peraltro non conosciamo anche le modalità con cui, certo, è possibile farla, e chi teoricamente poi rimborsa questo denaro, se lo dovremmo fare appunto con non so un incentivo IRPEF piuttosto con che cosa? Ancora non abbiamo molta chiarezza su questo. Ma io dico chiunque comunque vada attualmente a comprare una casa nuova piuttosto che a costruire, non so, anche io dico anche le seconde case, uno decide di costruirsi la villetta al mare o in campagna. E rispondiamo per esempio a chi ci chiede se vale solo per la prima casa. Sì. No, questo no, limite non è c'è. Scritto da nessuna parte, quindi benvenga a chi magari vuole costruirsi la villetta da qualche parte, se la costruisce in maniera sostenibile energeticamente, diciamo, comunque più efficiente, e allora può usufruire di questi incentivi che, come abbiamo detto all'inizio, benvengano, cioè tutte queste possibilità benvengano. Poi dopo abbiamo magari delle difficoltà di applicazione, ma cerchiamo di risolvere e vedremo come le risolveranno anche a livello governativo. Allora poi faremo anche magari un esempio di casa ecosostenibile, che materiale utilizza, da dove si comincia, a chi ci si rivolge, perché ammettiamo che qualcuno stamattina si illumini, non lo so, visto che magari ha in procinto di cominciare a meditare su un investimento di questo tipo, ammettendo che non abbia mai fatto fino a questo momento, da dove comincia e che cosa deve fare. Però intanto abbiamo anche altre domande di altri ascoltatori. Maurizio dalla provincia di Latina, quindi ci faccio tornare in Centro Italia. Maurizio, buongiorno. Buongiorno, senta, grazie comunque per avermi chiamato. Grazie a lei. Volevo chiedere, siccome sono fatto già compromesso per l'acquisto di un nuovo appartamento, no, l'edificio diciamo di nuova costruzione, questo condominio, già è dotato di un certificato energetico, ho fatto già pure il compromesso, volevo chiedere diciamo qual è la procedura diciamo per usufruire di questi incentivi. Effettivamente lei la domanda l'ha fatta prima, infatti non abbiamo ancora molta Si espleta diciamo infatti, quando rogita, cioè, Maurizio, peraltro, perché dobbiamo anche capire se tra un mesetto insomma, 38. Perché gli incentivi entrano a regime esattamente come gli altri per gli elettrodomestici il 6 aprile, per cui chiaramente c'è adesso, poi ci sarà anche da affrontare tutti coloro che sono in una situazione transitoria, che ha già fatto il compromesso ma fa il rogito dopo il 6 aprile, come si deve comportare per fare la richiesta, cosa farà fede il rogito, il compromesso. Vabbè, ingegnere Imperatore, insomma, in termini generali cosa possiamo secondo lei suggerire a Maurizio? A Maurizio dovrebbe rientrare facendo il rogito fra 30 di giorni, quindi dovrebbe rientrare in questa prassi. L'appartamento intanto deve essere a posto. L'appartamento deve essere a posto. Lui ha detto che c'è una certificazione energetica, quindi chi è stato, chi sarà il suo venditore è proprio lui, perché nell'articolo 2 è il venditore che deve farsi cura di trasmettere all'Enea appunto la documentazione, e poi l'Enea ha un tempo per decidere se questo edificio è idoneo oppure no. Siccome c'è una classificazione, siccome si può risalire all'energia primaria dell'edificio, a questo punto, in base a quello, in base a dove è l'edificio, in base alla legge, si può vedere se lui avrà diritto, avrà risparmiato, o meglio, se questo immobile consente di risparmiare sino al di migliorare del 30% o di migliorare del 50%, e quindi avere l'indicatore per poi fare la richiesta, che poi però deve essere valutata dall'Enea. Deve essere valutata dall'Enea, quindi è necessaria una figura terza come quella che le diceva, a parte appunto l'Enea, che dovrà dare il benestare sull'ottenimento e il diritto appunto agli incentivi. Chi dirà al nostro ascoltatore se il fabbisogno di energia della sua casa migliora del 30% o del 50%? Ingegnere Erba. Chi dirà? Nel senso, se lui ha in mano una certificazione energetica, ed essendo a Latina e Lazio non c'è una classificazione energetica, si utilizzano le linee guida nazionali, se lui ha già in mano una certificazione energetica in base alle linee guida nazionali, già le linee guida nazionali prevedono una classificazione in funzione della percentuale di miglioria rispetto alla legge nazionale, quindi già con quello ha degli indicatori molto più significativi. Mm-hmm. Quindi avendo ad esempio, non so, una classe B, adesso non so che classe abbia, può già l'ENEA sapere se lui effettivamente ha una miglioria del 30, del 50 o del 70% in funzione di. Con quella io penso che, sperando che quella sia stata fatta bene, possa inviare quella all'ENEA e sarà l'ENEA poi a valutare se. Però intanto, visto che ha un po' di tempo ancora prima del 6 aprile, ancora qualche tempo in più insomma prima del rogito, magari si rivolga a qualche professionista esperto in questo campo per capire insomma se è a posto. Certo. Sì, a livello di Regione Lazio, questo lo dico nel senso che in alcune regioni, quelle che hanno legiferato autonomamente sulla certificazione energetica, ci sono degli albi regionali dei certificatori energetici. Esattamente, come succede in Lombardia, ne abbiamo parlato Lombardia, più volte. Lombardia, Emilia Romagna, Liguria. Quindi bisogna riferirsi a queste persone. Per le altre regioni che non hanno legiferato in materia, il certificatore può essere, in base a una legge dell'anno scorso, può essere un qualsiasi tecnico mm-hmm. abilitato alla progettazione di edifici e impianti. E non c'è un ente accreditato. Però magari prima che, senza ovviamente suppongo che sia una persona esperta che gliel'ha fatta. Esattamente, non andiamo magari, non lo so, dal muratore che ristruttura la casa, andiamo da un ingegnere piuttosto che da un architetto, esperto, ecco, in energetica. Esattamente, in questo ambito. Ingegnere Imperatori, mi tolgo allora qualche curiosità. Ammettendo di dover costruire una casetta di 60 metri quadri, quali sono i materiali appunto che sfrutta la cosiddetta ecosostenibilità? Da dove cominciamo? Allora, la facciamo tutta di legno? La facciamo con questo cemento trasparente di cui ho sentito parlare, che mi ha incuriosito parecchio? Allora, secondo me, come dicevamo all'inizio, la scommessa vera e la vera fonte rinnovabile è il risparmio energetico, e quindi l'intervento sull'involucro opaco, oltre all'intervento su dei buoni serramenti sempre più prestazionali, sul recupero dell'energia addirittura dall'aria che noi dobbiamo espellere dall'edificio per intrometterne altra pulita, sono le strategie. Quindi prima cosa, intervenire su quello che a me piace chiamare il negawatt con la N, cioè il watt che noi non consumiamo, prima di rivolgerci a fonti rinnovabili, che va benissimo, cioè come solare termico, solare fotovoltaico. Però la prima vera scommessa sta nell'involucro, sta nel miglioramento dell'isolamento. Noi in Italia abbiamo dimensioni percentuali di isolamento irrisorie, e l'isolamento, un buon isolamento e un buon sfasamento termico, perché sono due parametri sempre da considerare, perché abbiamo regioni ma anche stagioni diciamo molto varie, quindi anche in Lombardia non abbiamo solo l'inverno, che può essere anche molto rigido e lungo come questo, ma abbiamo anche un'estate piuttosto impegnativa. E man mano che scendiamo al sud, il tema dell'estate e del raffrescamento diventa più importante rispetto a quello del riscaldamento. Allora, in questo caso, investire bene in un involucro ben isolato, sfasante e protettivo ci consente di migliorare il valore dell'immobile, senz'altro, di risparmiare in futuro, e quindi noi facciamo l'investimento sicuramente migliore. Come partenza è un investimento un po' più importante rispetto a senz'altro. Criteri tradizionali. Questo senz'altro, però i materiali innovativi, adesso il cemento trasparente probabilmente può essere affascinante per altre cose, non lo so, però gli stessi produttori di laterizi, l'abbiamo visto in quest'ultimo periodo, hanno iniziato a produrre dei laterizi compositi anche con isolanti, cioè si vede un'innovazione anche lì. È chiaro, tu mi chiedevi prima, se chiedi cosa penso io, e si sa un po' cosa penso io sulla costruzione iperisolata, stratificata, leggera, insomma, io credo che lì ci sia la vera innovazione, che sia a base di legno, a base di acciaio e legno, a base di diversi materiali isolanti, di un mix di isolanti, io credo che quella sia il futuro. Però anche su tecnologie più tradizionali si vede sempre di più, si vedono dei prodotti innovativi, anche quelli, come vedete, intervengono sulle frontiere. Certo, secondo me investimenti intorno ai quali bisogna operare una riflessione di lungo periodo. Non bisogna ovviamente fare adesso magari un investimento di questo tipo, perché siamo affascinati magari dall'incentivo fiscale, che sicuramente è molto importante, però il tema è che nel lungo periodo migliorano le condizioni ambientali generali, risparmiamo moltissimo sulle nostre bollette, è un investimento del quale il risultato non lo vediamo dopo domani. Ingegnere Erba. Sì, io una sola cosa volevo dire. Costruire una casa nuova adesso, rispettando i requisiti di legge, e costruirla aumentando, migliorandola rispetto ai requisiti di legge del 30%, i costi non aumentano in maniera spropositata, perché comunque io devo isolarla questa casa per rispettare i requisiti di legge. Quindi se sono nel nuovo, quando parliamo delle ristrutturazioni capisco che uno ci pensa un po' di più, perché comunque la casa ce l'ha già, ma se devo costruire un nuovo e devo per forza rispettare determinati requisiti, rispettare un 30% in più o come migliorare del 30% non mi cambia di tanto i costi. Questa è la cosa che vorremmo anche far passare. Per quanto riguarda il discorso involucro, è fondamentale, perché anche un impianto molto prestazionale con un buon involucro funziona meglio. Cioè mettere un impianto molto prestazionale con un involucro molto scarso funziona meno bene. Ovviamente, certo, dispersione di calore e quant'altro. Sì, è un problema di telaio e di motore per le automobili, no? È inutile che abbia un gran motore molto efficiente se poi il telaio è sgangherato e c'ha le ruote buche. Infatti. Allora, 800 24 00 24, continuate pure a prenotare i vostri interventi. Parliamo della casa ecosostenibile. È chiaro che questo è un tema che, voglio dire, in 45 minuti riusciamo difficilmente a svilupparlo in maniera corretta, però magari qualche curiosità di qualcuno riusciamo a soddisfarle. Soprattutto siamo partiti dal presupposto di questo nuovo pacchetto di incentivi che il governo ha deliberato venerdì scorso. Non è moltissimo, ma qualcosa è, soprattutto perché già si è impegnato in un investimento di questo tipo, adesso può essere anche sostenuto attraverso questo nuovo meccanismo. Stanno arrivando tantissime domande da parte vostra, che per me sono anche piuttosto incomprensibili, nel senso: uno scambiatore di calore quanto fa risparmiare, chiede un ascoltatore, cosa sono le serre bioclimatiche per le case, come fa a capire se conviene installare queste tecnologie nella propria abitazione? I miei due interlocutori hanno abbassato la testa, c'è qualche volontario, ingegnere Imperadori. Sì, allora, difficile dire quanto fa risparmiare uno scambiatore, l'abbiamo detto prima, dipende innanzitutto quanto questo scambiatore è messo in condizione di avere un involucro che gli consente appunto di far risparmiare, quindi la domanda è un po' difficile, un po' aleatoria. Sulla seconda invece vorrei aggiungere una cosa, sulle serre bioclimatiche. Le serre bioclimatiche invece sono un oggetto interessante, non rientrano però in questi incentivi, però vorrei spendere due parole perché sicuramente ben messe verso il sud in inverno, attenzione, verso sud lo ripeto tre volte, o sud-est, consentono di captare energia. Attenzione però che in Italia abbiamo delle estati calde, quindi dobbiamo schermare queste protuberanze che tra l'altro in Lombardia, secondo una legge regionale, possono essere realizzate e scomputarne, e si può scomputarne, diciamo, gli oneri, le superfici insomma non sono effettive agli effetti del calcolo degli oneri. Quindi sicuramente sono un'estensione dello spazio e della captazione energetica interessante per l'inverno. Attenzione d'estate a schermarle opportunamente. Laura da Treviso invece chiede: se faccio cappotto isolante, che piace tanto all'ingegnere Erba, sull'abitazione posso godere della detrazione se l'abitazione è nuova? Sì. Questo a prescindere, nel senso, non è una ristrutturazione, no. Non è che se si abita in questa casa da 20 anni adesso la ristruttura, se la ristruttura e fa il cappotto può accedere agli incentivi del 55% rispettando, e sbrigarsi lo faccia entro il 31 dicembre. Esatto. Perché sennò anche questo treno è passato. Allora, chi sentiamo adesso? Andiamo a Pordenone. Loris, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per avermi chiamato. Sì, rapidissimo. Sì, una cortesia, io procedo breve con un intervento di ristrutturazione e ampliamento. Mm-hmm. Ecco, la parte che andrò a ampliare sarà nuova. Volevo sapere se per quella parte posso fruire di quanto si è detto finora. No, questo magari rientra nel piano casa, parliamo di un altro argomento. Sì, questo secondo ancora. Me è un altro argomento. Io direi che il nuovo, proprio nell'articolo 2, dico a Loris, acquisto di immobili di nuova costruzione. È proprio chiara, specificato, è molto chiaro. È l'unico punto sulla quale è chiarissima la nuova normativa. Perché lui avrà fatto una pratica di invece ristrutturazione, sì, ampliamento, quindi non rientra. Allora, andiamo ad Adelio della provincia di Lecco, buongiorno a lei. Buongiorno signora Deborah Rosciani, anche ai suoi ospiti. Sì, dica subito. Allora, le volevo chiedere, dato che io ho appena terminato una costruzione nuova, e adesso ho appena avuto l'abitabilità, volevo chiedere, dato che io ho fatto cappotto, il tetto termico, pavimento con tutti i criteri, insomma, del campo terra, vetri bassi emissivi, insomma, un appartamento virtuosissimo dal punto di vista del risparmio energetico. Sì. Ecco, volevo appunto chiedere se io rientro, dato che la casa io l'ho iniziata fine 2006 e l'ho terminata adesso, volevo chiedere se io posso rientrare in queste Adelio, allora lì, ecco, tra l'altro è un tema molto interessante, perché bisognerebbe, lo scopriremo presto, Adelio, forse su questo punto non possiamo essere ancora estremamente chiari con lei, capire chi ne avrà diritto, se è partito con la... perché è chiaro che molti ne faranno domanda, perché la casa non è che si costruisce da un giorno all'altro. No. Le tempistiche. Però, comunque diciamo che Delio ha fatto bene, questo vorrei dirgli, l'ha fatto bene perché ha investito bene i suoi soldi. Se non le danno questi 7.000 euro sicuramente magari li riporta a casa. Secondo me da 7 a 10 anni lui questi 7 li riporta tutti dentro. Con gli interessi, sì, anche. Con gli interessi. Però ecco, diciamo che ancora gli aspetti temporali su chi avrà diritto a questo incentivo, e cioè qualcuno che è partito già con la costruzione della casa da qualche tempo, se ci rientra Adelio, sono aspetti che ancora non conosciamo, però non appena li conosceremo rifaremo subito seduta stante un'altra trasmissione, quindi tenga ovviamente sotto controllo un po' anche tutti i giornali che di questo tema si occuperanno sicuramente moltissimo prossimamente. Stefano da Milano, buongiorno. e buongiorno a tutti. In qualche modo è stata già risposta alla domanda che ho in mente io. Avendo un rogito tra 15 giorni circa, quindi poco dopo il 6, voglio sapere se rientro. A questo punto però vorrei fare una domanda sull'Enea, sull'intervento nella situazione dell'Enea. Ho letto che dovrebbe rispondere all'ok del risparmio energetico entro un mese. Sì, per questi ultimi contributi. Io auspico che sia molto semplificata e molto sembra telematica tramite il sito. Spero che come al solito non ci siano burocrazie spaventose che scoraggino i costruttori e i termotecnici, che io ho appena investito del problema, appena ho saputo di questo incentivo. E appunto si spera che questa volta questi incentivi siano lo speriamo anche noi. Infatti, guardi, qui abbiamo due professionisti che naturalmente non sa quanto siano d'accordo con lei. Adelio, mediamente l'Enea, anche per tutta la partita, del 55%, quanto tempo impiega dare una risposta? Sono molto veloci. Sì. Io devo dire che il gruppo efficienza energetica dell'Enea era Stefano, per il 55% sono molto veloci, rispondono in tempi molto brevi, tant'è che normalmente le risposte, le domande che vengono mandate all'Enea possono essere mandate solo in mattinata, perché loro nel pomeriggio evadono tutte le risposte. Incredibile. Cercano di evadere tutte le risposte. Questo e anche la burocrazia, diciamo, dell'incentivo del 55%, devo dire che è abbastanza semplice. Quindi se questi incentivi seguiranno lo stesso iter, o comunque seguiranno questo gruppo di lavoro, cosa che non ne sono convinta, perché non credo che sarà lo stesso gruppo di lavoro che prenderà carico questa cosa, però speriamo infatti, che siano veloci. Chiaramente all'Enea ci saranno dei professionisti assolutamente preparati, però questa è anche una partita di incentivi completamente nuova, per cui è chiaro che 30 giorni dalla ricezione. Poi l'Enea può chiedere, può comunicare, sempre all'articolo 2 viene scritto al venditore e all'acquirente, per motivate esigenze documentali o per accertamenti tecnici, un differimento del termine riferimento. Di 30 Quindi giorni. Quindi se la documentazione inviata all'Enea è insufficiente, non è che l'Enea respinge la pratica, ma chiede di implementare eventualmente la documentazione. Quindi però terminati questi si intende espressa attestazione negativa se non viene rilasciata. Però l'Enea comunica sia che la pratica sia stata accolta, che sia stata respinta, lo comunica, quindi non c'è nessuna procedura di silenzio assenso, in sostanza, o silenzio dissenso, che è un'altra cosa. Che abbiamo adesso, era Stefano da Milano che abbiamo sentito prima, andiamo ad Andrea. Andrea, buongiorno. Buongiorno a voi. Io sto mettendo a posto una casa piuttosto antica e che mi chiederò il 55% su degli interventi su tetto, impianti e finestre. Mi volevo chiedere, non potendo fare un cappotto per questioni di vincoli paesaggistico-ambientali, come mi devo comportare? Ingegnere, può fare un isolamento dall'interno, non è che ci siano molte alternative. Non potendo isolare dall'esterno, dovrà fare un isolamento dall'interno. Sono d'accordo, ci sono varie soluzioni. Se lei isola dall'interno in modo classico, attenzione, perché la fisica tecnica della parete cambia molto e quindi dovrà disporre delle idonee barriere al vapore, altrimenti invertiamo. Cioè, il cappotto di solito me lo metto all'esterno, no? Anche quando cammino. Non me lo metto sotto la camicia. Giusto. E quindi questo implica un calcolo termico preciso. Se poi l'immobile è, tra l'altro, di pregio, eccetera, attenzione. E però posso intervenire anche con materiali innovativi, termoriflettenti, multistrato, cose del genere, che ci consentono un intervento solo sul guscio interno. Perfetto, allora intanto il tempo a nostra disposizione come al solito è volato. Ci manca qualcosa da dire ancora a proposito dei nuovi incentivi? Magari come monitoriamo in questo frangente? Come esperti voi dateci qualche suggerimento, la situazione, c'è poco da fare, però soprattutto quel tema è la tempistica. Chi ha cominciato le costruzioni quanto tempo prima, chi avrà diritto? Sì, le modalità proprio per gli ecoincentivi sulla casa, perché sugli altri bene o male hanno detto tutte le modalità, il consumatore, il venditore, il rivenditore cosa deve fare. Sull'edificio invece le modalità non sono chiarissime. Infatti, come anche le va bene, vi richiamo dopo il 6 aprile, ingegnere Imperatore, sì, doveva concludere. Come va la costruzione del suo asilo nido all'Aquila, tra l'altro, secondo anche questi criteri? Sì. Questo non è solo mio, ma è di tanti. Noi abbiamo regalato il progetto e come Politecnico lo sosteniamo molto, c'è Confindustria Mantova, insomma Fondazione Onlus Mantovana che sostengono, molti produttori. Ecco, lì abbiamo fatto una certificazione energetica e siamo a 17 kWh metro quadro anno, quindi un piccolo edificio totalmente regalato ad altissima efficienza. Benissimo, bravi. Allora, io vi ringrazio per essere stati con grazie noi, complimenti soprattutto per la vostra enorme competenza, l'ingegner Marco Imperatore e l'ingegner Valeria Erba, che rimetteremo insieme sicuramente dopo il 6 aprile, 7 e 8, state pronti perché dobbiamo spiegare a tutti i nostri ascoltatori come ci si può mettere in lista per prendere questi incentivi. Intanto da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti.